Canto sedicesimo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto sedicesimo. Già era in loco ove s'udia il rimbombo dell'acqua che cadea nell'altro giro, simile a quel che l'arnie fanno rombo, quando tre ombre insieme si partiro correndo d'una torma che passava sotto la pioggia dell'aspro martiro. Venian ver noi, e ciascuna gridava: «Sostati tu, che all'abito ne sembri essere alcun di nostra terra prava!» Ahimè, che piaghe vidi nei lor membri, recenti e vecchie dalle fiamme incese, ancor men duol pur ch'io me ne rimembri. Alle lor grida il mio dottor s'attese, volse il viso ver me e «Ora aspetta», disse, «a costor si vuol esser cortese». E se non fosse il fuoco che saetta la natura del luogo, i dicerei che meglio stesse a te calor la fretta. Ricominciar, come noi ristemmo, ei l'antico verso. E quando a noi fur giunti, fenn una ruota di sé tutti e trei, qual suole nei campion far nudi ed unti, avvisando lor presa e lor vantaggio, prima che sien tra lor battuti e punti, così, rotando ciascuno il visaggio, drizzava me, sì che in contrario il collo faceva, ai piè continuo viaggio. E, se miseria desto loco sollo rende in dispetto noi e nostri preghi, cominciò l'uno, e il tinto aspetto e brollo, la fama nostra, il tuo animo pieghi a dirne chi tu sei, che i vivi piedi così sicuro per lo inferno freghi. Questi, l'orme di cui per starmi vedi, tutto che nudo e di pelato vada, fu di grado maggior che tu non credi. Nipote fu della buona Gualdrada. Guido Guerra ebbe nome, e in sua vita fece col senno assai e con la spada. L'altro, appresso me l'arena tritta, è Teghiaio Aldobrandi, la cui voce nel mondo su dovrebbe esser gradita. Ed io, che posto son con loro in croce, Jacopo Rusticucci fui, è certo la fiera moglie più ch'altro mi nuoce. Si fussi stato dal fuoco coverto, gittato mi sarei tra lor di sotto, e credo che il dottor l'avria sofferto. Ma per chi mi sarei bruciato e cotto, vinse paura la mia buona voglia che di loro abbracciar mi facea ghiotto. Poi cominciai: «Non dispetto, ma doglia la vostra condizion dentro mi fisse, tanto che tardi tutta si dispoglia, tosto che questo mio signor mi disse parole per le quali io mi pensai che qual voi siete, tal gente venisse. Di vostra terra sono, e sempre mai l'ovra di voi e gli onorati nomi con affezion ritrassi ed ascoltai. Lascio lo fele, e vo pei dolci pomi promessi a me per lo verace duca, ma fino al centro pria convien che tomi. Se lungamente l'anima conduca le membra tue», rispose quegli allora, «e se la fama tua dopo te luca, cortesia e valor di se dimora nella nostra città sì come suole, o se del tutto se n'è gito fuora, che Guglielmo Borsiere, il qual si duole con noi per poco e va là coi compagni, assai ne crucia con le sue parole. La gente nuova e i subiti guadagni orgoglio e dismisura ingenerata fiorenza in te, sì che tu già ten piagni». Così gridai con la faccia levata, e i tre che ciò intesero per risposta guatar l'un l'altro come aversi guata. Se l'altre volte sì poco ti costa, risposer tutti, il soddisfare altrui, felice te che si parli a tua posta. Però, se campi desti luoghi bui e torni a riveder le belle stelle, quando ti gioverà dicere i fui, fa che di noi alla gente favelle. Indi ruppe la ruota e da fuggirsi ale sembiaron le lor gambe snelle. Un ammen non saria potuto dirsi tosto così come i furo spariti, perché al maestro parve di partirsi. Io lo seguiva, e poco eravamo iti che il suon dell'acqua n'era sì vicino che per parlam saremmo appena uditi. Come quel fiume, ch'a proprio cammino prima da Monte Veso in ver Levante, dalla sinistra costa d'Appennino, che si chiama Acqua Cheta Suso, Avante, che si diballi giù nel basso letto, e a Forlì, di quel nome è vacante, rimbomba la sovra San Benedetto dall'Alpe per cadere ad una scesa dove dovria per mille esser ricetto. Così, giù d'una ripa discoscesa, trovammo risonar quell'acqua tinta sì che in poca ora avria l'orecchia offesa. Io avea una corda intorno cinta e con essa pensai alcuna volta prender la lonza alla pelle dipinta. Poscia che l'ebbi tutta da me sciolta, sì come il duca m'avea comandato, porsila lui, aggroppata e ravvolta, ond'ei si volse in ver lo destro lato, e alquanto di lungi dalla sponda la gittò giuso in quell'alto burrato. «E il pur convien che novità risponda», dicea fra me medesmo al nuovo cenno che il maestro con l'occhio si seconda. Ahi, quanto cauti gli uomini esser denno presso a color che non veggon pur l'opra, ma per entro i pensier miran col senno. Ei disse a me, tosto verrà di sopra ciò che io attendo e che il tuo pensier sogna, tosto convien ch'al tuo viso si scopra. Sempre a quel ver ch'a faccia di menzogna dell'uom chiuder le labbra quanto puote, però che senza colpa fa vergogna. Ma qui tacer non posso. E per le note di questa commedia, lettor, ti giuro, s'elle non sien di lunga grazia vote, ch'io vidi per quell'aere grosso e scuro venir notando una figura in suso, meravigliosa d'ogni cuor sicuro, sì come torna colui che va giuso talvolta a solver l'ancora che aggrappa o scoglio o d'altro che nel mare è chiuso, che in su si stende ed a pie si rattrappa. Fine del canto 16.